Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Lucarelli, uno degli autori di noir più amati in Italia, torna con un romanzo ambientato nell'Eritrea dell'epoca coloniale. L'aveva già fatto con Albergo Italia, dove per la prima volta comparivano i personaggi del capitano Colaprico e del carabiniere indigeno Ogba, ma l'aveva fatto anche in un romanzo precedente, L'ottava vibrazione. Il tempo delle Iene, pubblicato come sempre da Einaudi, è dunque un poliziesco ambientato ai primi del Novecento, quando l'Eritrea era colonia italiana. Ci sono una serie di morti misteriose, dei contadini, dei braccianti agricoli vengono trovati impiccati. I due, ossia Colaprico e Ogba, indagano e, come spesso accade nei romanzi di Lucarelli, finiscono per scoprire qualcosa di più grande, diciamo un mondo fatto di corruzione. Perché ambientare di nuovo un romanzo nell'Eritrea coloniale? Sentiamo che cosa ci ha detto Lucarelli. Dopo il viaggio fatto in un altro mondo, in un altro luogo, in un altro tempo, con l'ottava vibrazione, avevo attorno a me ancora un sacco di materiale, di immaginario, no? Che mi sarebbe piaciuto continuare a raccontare. E questo è uno dei motivi. Il motivo più importante è perché ho scoperto laggiù in quel periodo tantissime radici del nostro essere italiani oggi, ma non solo, anche tanti argomenti importanti come il confronto con l'altro, no? Con un altro che dovremmo conoscere ma che in realtà non conosciamo per niente, che è uno dei temi di oggi, no? Con l'arrivo appunto dell'immigrazione, col confronto con altre culture, sempre in una maniera conflittuale come ci abbiamo noi e non aperta e dialogante come avremmo dovuto avere da ormai più di 100 anni, visto che una volta eravamo laggiù a confrontarci con altre persone. E poi ci sono due personaggi che mi piacevano e ero incuriosito, come sempre succede nei libri, quando io scrivo, insomma, ho la curiosità di sapere che cosa gli succede dopo l'ultima pagina del libro, e quindi ho ricominciato. Beh, tu sei uno scrittore da personaggi seriali, insomma, ci sono diverse tue saghe, Grazia Negro, il commissario De Luca, quella ambientata negli anni 40, che ormai è parecchio tempo che non ritorna il commissario, l'ispettore Coliandro, che poi è diventato famoso anche perché è arrivato in televisione. Questa è una caratteristica un po' dei noiristi e dei giallisti, avere dei personaggi seriali. Tu per esempio hai nostalgia del commissario De Luca, che non rivedi più da parecchi anni? Sì, anche perché l'ho incontrato recentemente. Il libro che sto scrivendo adesso è al commissario De Luca come protagonista. Sì, succede così a me, insomma, incontro dei personaggi, loro raccontano una storia, poi magari mi viene in mente un'altra storia che non è adatta a loro, allora c'è un altro personaggio che me la racconta, poi dopo un po' di tempo torna, succede qualcosa nel mondo, insomma, mi viene in mente un'altra cosa e chi me la racconta questa storia qui, e magari torna un personaggio di prima. Succede sempre nel noir perché noi abbiamo questa grande possibilità, il personaggio nel nostro romanzo tu sai che cosa fai, che ruolo ha. È l'uomo che cerca, per esempio. Non hai bisogno di perdere spazio narrativo a spiegare che ci fa lì in quel momento. Quindi tutto questo spazio lo usi per costruire il personaggio. Ed ecco che vengono fuori personaggi sicuramente molto scavati, molto vivi, no? E molto concreti, e che poi non ti abbandonano più. Il tempo delle Iene è una forma, diciamo, di poliziesco storico, diciamo così, semplicemente perché è ambientato appunto ai primi del Novecento. Tu utilizzi spesso vicende del passato per spiegare il presente, ma perché il passato e il presente veramente si somigliano o è una tua interpretazione di quei fatti? Sì, mi piacerebbe che fosse solo una mia interpretazione, cioè prendo una metafora del presente che parla a me e spero parli ad altri. Purtroppo è che per il nostro paese in particolare, essendo il passato mai passato e quindi essendo continuamente presente, se tu vai a prendere una storia del 1900, come ho fatto io, i diari del governatore Martini, che era il primo governatore civile della colonia d'Eritrea in quegli anni, e li vai a leggere, ti accorgi, Martini dice: io sono arrivato qui con un mandato, tagliare, tagliare, tagliare. Non usa la parola tagli lineari, no? Che abbiamo sentito tante volte, ma è quasi. E così anche in tanti altri momenti di quel pezzettino di storia, per esempio, incontri tantissime cose che fanno gli italiani di sempre, tipo fare un gran guaio, rubare per esempio, ammazzare anche, poi scappare all'estero e scrivere un memoriale e improvvisamente essere assolti per insufficienza di prove. È una storia costante. Allora io scelgo dei periodi storici, adesso ho capito perché ti raccontano un pezzo di storia di allora che però è la storia di oggi, e allora dovremmo fare i conti con quella storia vecchia e magari la storia futura sarà diversa. Il noir può essere anche profetico, penso al caso dei tuoi colleghi De Cataldo Bonini con Suburra, eccetera, ma ci sono tantissimi anche altri casi. Beh, allora, sì e no, spiego. Anche a me è successo una volta, ho scritto Falange Armata sulla banda dell'Uno Bianca e 2 anni dopo li hanno arrestato dei poliziotti che erano a capo della banda, come avevo scritto io. E Bonini e De Cataldo sono un caso meraviglioso, no, di questo. Ma in realtà non è che noi siamo profetici, non è che noi anticipiamo, noi registriamo delle cose probabilmente che ancora non sappiamo. Noi mettiamo in scena dei meccanismi su delle suggestioni che sentiamo, a volte anche inconsciamente, e così mettiamo in scena delle cose. Oh, guarda caso, queste cose poi sono quelle che stanno avvenendo, ma che magari ancora non conosciamo. Fra un anno avremo capito che quello che scrivevamo era giusto. Noi dovremmo avere sempre questa idea, dovremmo essere presi un po' più sul serio quando scriviamo un romanzo, che uno dice: ma dai, cosa sei andato a inventarti? Il lettore dovrebbe fermarsi un attimo e dire: aspetta un secondo, ma veramente succedono queste cose? Andiamo a vedere sul giornale. Per esempio, fra i fatti di cronaca, no, ultimamente, ce n'è uno che ti ispira particolarmente, che secondo te potrebbe essere un ottimo tema di un noir, indipendentemente se lo scriverai o meno, insomma? Beh, tantissimi. Un noir del mio tipo, voglio dire, tutta la vicenda di Mafia Capitale di Roma è una cosa importantissima. È stata vicenda di molti miei noir e ho paura che lo sarà ancora. Tutti i processi che si stanno facendo adesso nella mia regione, nella mia città, Bologna, per mafia, per 'ndrangheta. Ci sono tanti meccanismi che noi rubiamo, per esempio anche i delitti privati, no? Gli omicidi, quelli che finiscono sul giornale, dovrebbero starci un po', poi smettere, perché insomma magari abbiamo trovato chi è stato. Quei meccanismi lì ce ne sono tanti che noi prendiamo e inseriamo dentro quel contesto più complesso e poi lo facciamo esplodere raccontando un pezzo. Insomma, ho paura di dire che se sfoglio il giornale adesso direi che tutti i giorni trovo una cosa su cui potrei scrivere un romanzo. Tornando invece nello specifico al Il Tempo delle Iene, questa volta con l'Aprico, il suo collaboratore Ogba, perché appunto è indigeno in questo caso e quindi conosce bene la mentalità eritrea e anche italiana, perché noi eravamo all'epoca i colonizzatori, hanno a che fare con strani casi, nel senso che vengono trovati impiccati dei braccianti agricoli e poi addirittura il proprietario, quindi un bianco, il proprietario di una tenuta agricola. Sembra che la chiave del mistero sia in una donna misteriosa che vive appunto da sola, accompagnata dalle iene, che però anche lei è scomparsa. Come si comportano, senza svelare i particolari naturalmente, i due in questa indagine? Beh, una delle indagini solite, no, dei miei personaggi, che sembrano semplici ma in realtà coinvolgono poteri un po' più grossi e quindi diventano molto più difficili. Quasi tutte le persone che loro riescono a contattare o stanno cercando poi scoprono che sono morte e si comportano così, corrono dietro a quello che sta succedendo. Con questa differenza, il capitano Colaprico è il capitano dei carabinieri, il titolare dell'indagine è l'italiano, il colonizzatore, insomma è il capo, diciamo. Però non riesce a capire tutto, perché chi può capire veramente tutto è chi vive lì, Ogba. Che è un personaggio che a me piace tantissimo, perché alla fine diventa lui il vero Sherlock Holmes, che io scopro libro per libro, direi, perché è una mentalità ovviamente che non mi appartiene, non è la mia. Lui è un eritreo di quel periodo lì, nel contesto in cui vive, ma che io rubo perché Ogba è il nonno di mia moglie è eritrea e suo nonno Ogba, Gabriel Ogba, faceva lo zaptie, cioè il carabiniere eritreo. E allora io ogni tanto chiedo a lei: ma cosa diceva nonno Ogba? Lei non se lo ricorda ovviamente, chiede a sua madre: nonno Ogba che faceva? Cosa? Io prendo quella cosa e la infilo a lui e vedo che lui, con questi piccoli dettagli, no, che gli metto, fa un passo avanti e arriva alla verità di solito. E che rapporto c'è fra Ogba e Colaprico? È un curioso rapporto che io capisco piano piano, perché all'inizio sarebbe stato facile fare, no, Sherlock Holmes e Dr. Watson, poi chiediamoci chi dei due è lo Sherlock Holmes. Però è un rapporto complesso, perché da una parte Colaprico, per quanto amico di Ogba e Ogba amico di Colaprico, comunque sono su due gradini diversi. Ogba non gli può dire a Colaprico: guarda che secondo me hai sbagliato. Perché? Perché intanto è Colaprico un superiore, poi Colaprico è un bianco, un ferengi. Ogba si trova di fronte per esempio a suo fratello che gli dice: tu sei servo dei bianchi. E Ogba cosa dice? Il quale, invece, Ogba gli piace molto fare il carabiniere, scoprire la verità, darsi da fare in questo senso. Che dice Ogba? Che rapporto c'ha con questo? Ecco, questo è il tema del prossimo libro che scriverò, perché è un rapporto molto curioso. Di sicuro è un rapporto di amicizia. Ancora che tipo di amicizia devo ancora capirlo, ma di sicuro è amicizia. Ogni volta che si parla di Carlo Lucarelli, soprattutto ogni volta che ti si vede in televisione, si fa subito l'associazione mistero, misteri da scoprire, casi irrisolti, vicende dell'Italia che vanno appunto ancora scoperte. Questa ormai equazione, questa immagine di te, ti fa piacere o pensi che alla fine sia riduttiva, che il pubblico ti veda solo in un determinato modo? Beh, è vero che io faccio in gran parte quello e quella è la chiave che mi interessa di più, anche quando scrivo storie. Dovessi scrivere una storia d'amore, partirebbe in un modo misterioso, c'è un tizio sotto un lampione, non sai chi aspetta, ecco. Per cui sì, da una parte è giusto questo, non solo, ma gran parte del mio interesse è quello lì, mi interessano quelle storie. Quando ho scritto Albergo Italia, pensavo di scrivere un romanzo giallo classico proprio, col morto in una camera chiusa dall'interno, e in un albergo, e questi devono scoprire chi è stato, e basta, cioè vogliono solo sapere chi è stato, fine. E poi all'Agatha Christie quasi. Agatha Christie. Però dopo è entrata dentro la vicenda della banca romana, si è entrata dentro un po' di mafia, poteri occulti, servizi segreti, mi sono ritrovato in un mistero italiano. Quindi riduttivo, vorrei che la gente non pensasse solo questo, ma mi desse anche la possibilità magari di scrivere un libro che parla di farfalline. Quindi, ma lo farai? Prima o poi, chi lo sa, saranno farfalline strane però. Misteriose come minimo. Misteriose. Secondo te quali sono i 3 o 4 gialli, noir o thriller proprio della storia internazionale imperdibili che potresti consigliare al pubblico? Allora, beh, ho in mente abbastanza, insomma, una risposta abbastanza facile, nel senso che ne ho tanti che mi vengono in mente, quindi 3 faccio presto a sceglierli. Purtroppo ne dovrei dire 50. Allora, di sicuro io partirei con qualcosa di italiano, un paio di cose italiane. E uno dice: non ho mai letto gialli, leggi I ragazzi del massacro di Giorgio Scerbanenko. Questa è una prima cosa che fa capire di cosa stiamo parlando, cioè dove stiamo all'interno del noir. Poi dovrei aggiungere una cosa per fare proprio una storia, mettiamo ancora una cosa un po' antica, e io direi Addio mia amata di Raymond Chandler, perché così abbiamo capito anche un altro pezzo. No? Raymond Chandler è stato, come dire, un maestro, sì, in America ma anche in tutto il mondo, insomma. Sicuramente, sì, ha inventato un'atmosfera, un tipo umano, no? Poi altri lo facevano, va bene, ma lui è quello, no, che magari ci ricordiamo meglio. Poi dovrei, senti, se devo cominciare a dire delle cose, direi American Tabloid di James Ellroy, perché così magari uno capisce che il noir racconta anche la storia, cioè racconta non soltanto un'atmosfera o una piccola società, un piccolo contesto, ma anche una storia internazionale. Ellroy è un altro che racconta attraverso la storia dell'America, a volte anche la realtà, insomma. Assolutamente, James Ellroy sì, assolutamente, perché se vai a rileggerti American Tabloid, che parla di Kennedy, ma di tante altre cose attorno, leggi dei meccanismi, perché il bello del noir non è soltanto quello di leggersi un fatto e quindi di sentir parlare di cose, ma anche quando leggi, appunto, e qui ne avrei un fiume, da I traditori di De Cataldo, o Romanzo criminale sempre di De Cataldo, oppure, che ne so, Malaria di Eraldo Baldini, tanti ne potrei citare, non leggi soltanto quel fatto, leggi un meccanismo, un modo di pensare, un modo di agire, che sono modi di pensare e di agire che appartengono alla metà oscura del mondo, io credo, da quando l'uomo si è alzato, no? E ha cominciato a camminare a 2 zampe invece che a 4. E allora cominci a capire cosa vuol dire pensare male. E contemporaneamente anche che il cuore umano, come diceva un altro grande giallista, che è Augusto De Angelis, consiglierei anche lui i suoi romanzi, che scriveva negli anni 30, e che diceva: non è che ci interessa sapere chi ha ammazzato chi, perché tutto sommato a noi interessa sempre lo stesso mistero, che è il mistero del cuore umano. Allora, i meccanismi del male, il mistero del cuore umano, sono quello che ti viene raccontato da qualunque storia noir, che sia ovviamente bella. E questo era Carlo Lucarelli, ora in libreria con Il tempo delle Iene, pubblicato da Einaudi, un poliziesco, l'avete sentito, ambientato nell'Eritrea coloniale dei primi del Novecento. E mentre, come avete sentito proprio dalle parole di Lucarelli, tornerà presto in libreria con Il commissario De Luca. Questo, insomma, è un'anticipazione per i fan di Lucarelli. Il cacciatore di libri. E ora parliamo dell'ultimo romanzo dell'americano David Levitt, diventato famoso nell'84 con la raccolta di racconti Ballo di famiglia. Altri libri di successo: La lingua perduta delle gru, da cui è stato tratto l'omonimo film, e Il corpo di Jonah Boyd. Ha vissuto a lungo in Italia, infatti in questa intervista lo sentirete, parla anche un po' di italiano. Fa parte della corrente dei cosiddetti scrittori post-gay, insieme per esempio a Michael Cunningham. I personaggi omosessuali sono spesso presenti nei suoi romanzi. L'ultimo si intitola I due hotel Frankfurt, pubblicato in Italia da Mondadori con la traduzione di Delfina Vezzoli. Un romanzo veramente bello, appassionante. Siamo a Lisbona 1940. Due coppie devono fuggire dall'Europa nazista e aspettano una nave che li porti in America. Da una parte Edward e Iris, dall'altra Pete e Giulia. Pete, tra l'altro, è la voce narrante. Fra i due uomini inizia da subito una relazione molto profonda. Il romanzo ne analizza così le diverse sfumature emotive, così come guarda alla reazione delle due mogli tradite. La parola a David Levitt. There are two couples who are both expatriate couples, one American, the other American and English. Ci sono due coppie, entrambe espatriate. Una americana e l'altra metà americana e metà inglese. Sono coppie che hanno vite molto diverse. Pete vende auto a Parigi, e questa è una cosa che ho deciso mentre la stesura del libro era già avanti, ma ho pensato che non dovesse avere nessun legame con il mondo letterario. È un conservatore, ha una vita tranquilla. Edward ed Iris sono più i tipici espatriati bohemien, hanno girato l'Europa, lo fanno da diversi anni e non hanno mai trovato una vera e propria dimora fissa. Per certi versi sono molto simili, per altri sono diversi. So in some ways they're very similar, in other ways they're very different. E tutti e due senza bambini, però Iris e Edward ha un cane di 16 anni. E questo è un dettaglio che ho trovato in una memoria un po' oscura di un giornalista americano, ungherese americano, e la sua moglie che hanno scappato di Francia da via Lisbona con il cane di 16 anni, un fox terrier. E anch'io avevo un fox terrier che è morto nel 2012 di 15 anni. Allora il personaggio che chi è il personaggio che io the character I identify with most is probably the dog. Il personaggio in cui mi identifico di più è probabilmente proprio il cane. Il cane è importante in questa storia perché Edward e Iris avrebbero potuto rifugiarsi in Gran Bretagna, non vanno in Gran Bretagna perché altrimenti il cane sarebbe stato messo in quarantena, e quindi Iris si rifiuta, dice no, andiamo a Lisbona e proviamo a imbarcarci per gli Stati Uniti. Sì. Quindi, insomma, questo cane è apparentemente marginale, ma in realtà è centrale nella storia. Centrale anche perché quando Edward e Pete comincia la loro storia, il cane sempre accompagna, è sempre presente. È il testimone della loro storia. E infatti l'incontro fra queste due coppie avviene appunto nella Lisbona anni 40, si devono imbarcare appunto, stanno aspettando la nave per imbarcarsi per New York. L'incontro è un po' uno scontro, perché Edward per errore insomma rompe gli occhiali di Pete, da qui inizia una strana relazione. Fin dal principio si capisce che c'è una certa tensione fra questi due uomini. Yes, well, I was. You were saying that they meet through an accident, and the story behind that scene is that I was the first time I went to Lisbon. Loro si incontrano per un incidente. E la storia somiglia a quello che mi è successo la prima volta che sono stato a Lisbona. Sono subito andato al Café Suisse, che era il caffè dove si riunivano gli stranieri. Mi sono seduto fuori e improvvisamente è arrivato uno stormo di piccioni piuttosto aggressivi, perché volevano mangiare quel poco che c'era per terra. Ho dovuto piegarmi e mi sono caduti gli occhiali. Questo episodio ha dato il via alla trama del romanzo. Non avevo mai visto piccioni così aggressivi, e questo mi ha fatto venire l'idea. That experience stayed with me, and that ended up becoming the sort of germ of the scene with which the book opens. Tutto il romanzo è incentrato sulle relazioni che si creano fra queste quattro persone, fra Pete e Edward, ma anche fra le due mogli. Per esempio, Giulia è un personaggio particolare, lei è ebrea, ma quasi rifiuta il fatto di essere ebrea, quasi non si preoccupa del fatto di dover scappare dall'Europa perché c'è il nazismo e c'è la persecuzione, la Shoah e così via. Lei vorrebbe rimanere in Portogallo, perché non vuole? Oddio, non possiamo svelare tutti i suoi segreti naturalmente, però ci sono dei motivi per cui lei non vuole tornare a New York. Well, I would answer that in two ways. First of all, it was really true that in 1940 no one knew what was going to happen. Posso spiegare la cosa in due modi. È vero che nel 1940, all'inizio della guerra, nessuno sapeva cosa sarebbe successo. Non si sapeva se lo stesso Portogallo sarebbe rimasto neutrale o avrebbe aderito all'asse. Solo ora, a distanza di tempo, capiamo cosa è stata la guerra. All'epoca molte persone non si rendevano conto di essere realmente in pericolo. Il fatto di essere ebreo, per esempio, era considerato dagli ebrei stessi meno importante dell'essere americano. L'essere americani dava loro l'idea di potersi salvare. Per quanto riguarda Giulia, nel corso del romanzo scopriamo che ha tutta una serie di segreti e motivi per i quali non vuole tornare in patria. In fondo, pensa che sia più importante quello che evita negli Stati Uniti rispetto alla necessità di scappare dall'Europa. E questo crea conflitti col marito. And so there's a kind of a conflict there from the very very beginning between her and her husband. A un certo punto la relazione fra Pete e Edward diventa molto intensa, molto appassionante, coinvolgente. Sarà masochistico. Sì, c'è anche una scena in cui uno dà un pugno ad un altro, insomma. Ci sono scene anche molto, molto forti. Si capisce che è una relazione importante, centrale in questo romanzo. Come le due mogli invece vivono questa loro relazione? Perché la loro reazione è molto diversa, perché Iris sembra più consapevole, quasi guida dall'alto, mentre Giulia è quasi indifferente. When I wrote the book, I was very much thinking of it as an homage to another novel, which is Ford Madox Ford's The Good Soldier. Quando scrissi il libro, pensai di fare un omaggio a un altro romanzo, ossia Il Buon Soldato, dove esiste questo rapporto fra due coppie, ma si tratta di coppie eterosessuali. La moglie di uno si mette col marito dell'altra e i due traditi diventano quasi amici per forza. Si crea un rapporto molto forte fra i due perché restano soli. E allora mi sono chiesto, se i due partner diventassero due uomini, potrei utilizzare questo esperimento? Alla fine ho usato questo modello, ma non ho voluto seguire più di tanto lo schema proposto da Il Buon Soldato, perché è una cosa che fanno in molti. Il mio romanzo può essere paragonato piuttosto al libro The Ambassador di Henry James o a storie raccontate da Shakespeare. Mi interessava effettivamente raccontare ed esplorare non solo il rapporto che c'è fra i due amanti, ma anche il legame che si crea fra le due persone che vengono abbandonate, fra le quali si crea appunto una strana alleanza. E voglio aggiungere una cosa. Sono un terribile intervistatore. La prima e unica volta che ho fatto un'intervista è stata con il regista Pedro Almodovar. Sono stato terribile. Invece di fare domande, ho parlato io. Ero molto giovane. Ma lui disse qualcosa riguardo alle polemiche che aveva suscitato il lancio del suo film, Legami, per il rapporto anche violento che c'era fra Victoria Avril e Antonio Banderas. La risposta di Almodovar è stata: in una storia d'amore c'è sempre della violenza. Io devo a lui questa scelta all'interno del mio libro. And there was people were accusing him of condoning violence to women, and he said, I think there's always some violence in every love affair. And that idea was very much in my mind when I was writing this book. So I owe that to him. In questo romanzo i protagonisti sono le emozioni, i sentimenti, appunto anche la violenza, l'amore, il tradimento. Lei stesso alla fine del romanzo dice che in una nota ha dato anche un po' spazio alla fantasia per quanto riguarda l'aspetto storico. Allora perché ha deciso di ambientare questa storia in quel periodo? Perché quel periodo era funzionale alla storia? The period and also the place, I would say, because I read a lot of memoirs of and diaries about Lisbon in this period. Il periodo, ma anche il luogo. Ho letto diversi libri, diverse memorie riguardo a Lisbona in quel periodo. Era un palcoscenico strano per gli europei che scappavano dal nazismo e che arrivavano lì quasi per miracolo, ma rimanevano un po' intrappolati nel luogo, vuoi perché aspettavano la nave, vuoi perché aspettavano i visti o il denaro. Quindi era sì una città in pace dove non c'erano privazioni come a Vienna o a Parigi. A Lisbona c'erano cibo, alcol, sigarette, c'erano i casinò dove poter giocare. E così i rifugiati benestanti hanno vissuto quel periodo a Lisbona un po' decadente, alla Boccaccio. Era un po' l'idea, è la fine del mondo, godiamocela. Il rapporto fra Pete e Edward nasce in quel luogo, un po' isolato, un po' a sé stante. Loro sono lontani dalle proprie vite normali. È un posto, Lisbona, dove nessuno ha un'idea chiara di cosa accadrà in futuro. Se ce la faranno ad arrivare negli Stati Uniti, se arriverà la nave, se verrà bombardata, se Salazar farà entrare il Portogallo nell'asse. C'è l'idea che ognuno può fare ciò che vuole, perché nessuno sa cosa accadrà domani. Era questo il punto di partenza. Quella relazione poteva avvenire solo là e solo allora, perché c'erano condizioni particolari. So I think one of the important ideas of the book is that this is a love affair that could only have taken place at that time and that place and could never have continued. Ho letto in un'intervista che il finale di questo romanzo lei l'ha trovato, insomma, si è fatto ispirare ascoltando un brano di Brahms. In che modo? Perché? Davvero. È una non mi ricordo come si chiama il pezzo di Brahms, però penso che è un intermezzo, ma performance, a particular performance. Una performance particolare di quell'intermezzo, realizzata da un pianista svedese negli anni 50. Non ricordo ora il suo nome, ma è il tono che mi ha colpito, un tono molto malinconico, che verso la fine diventa quasi un trionfo. E lì ho capito che il romanzo doveva finire con qualcosa di eroico, qualcosa di trionfale. Non era il modo in cui pensavo di chiudere il romanzo quando ho iniziato a scriverlo, ma l'idea mi è venuta proprio ascoltando e riascoltando questo intermezzo di Brahms. Mi dispiace non ricordare il nome della pianista. Over and over again to this Brahms intermezzo. And I'm sorry that I cannot remember the name of the pianist. I feel very ashamed. Nei suoi romanzi lei ha spesso affrontato la questione dell'omosessualità, dell'essere gay, ha anche dichiarato che ha scritto i libri che avrebbe voluto leggere magari lei da ragazzo, sì. Però diciamo da qualche anno ormai si definisce come un esponente della letteratura post-gay. Che cosa vuol dire? Well, I don't know if I invented that term. I think I might have. Someone may have used it before me. Forse ho inventato il termine post-gay. Non ne sono sicuro. Magari qualcuno l'ha utilizzato prima di me, però quando ho scritto quell'articolo sulla letteratura post-gay, volevo allontanarmi dall'idea dello studio identitario dell'essere omosessuale. L'identità gay, la politica identitaria di cui si sta parlando molto negli Stati Uniti, secondo me è una cosa che appartiene più al passato. In realtà nel libro mi sono basato parecchio su questo concetto perché Pete sostanzialmente non è gay. A un certo punto della sua vita ha una storia con un uomo. Edward è forse più gay, ma alla fine vive con una donna. Le cose sono cambiate tantissimo da quando ho iniziato a scrivere. Sono passati tanti anni. L'atteggiamento nei confronti dei gay è cambiato. Non è più urgente concentrarsi sull'idea di identità omosessuale. Mi ha colpito un libro di Jane Morris, un transessuale inglese che si è trasferito negli anni 70 in Marocco per farsi operare e diventare donna. Nelle sue memorie parla di come sia negativo il termine identità, perché tutto sommato la parola identità ha un'etimologia strana, non del tutto certa, quasi autodefinente. E anche a me non piace questo termine. Sono d'accordo con l'autrice. Quando si pensa all'identità, non è chiaro cosa definisce questa parola. È una sorta di parabola della parola stessa. How do you define it? It's a kind of a parabola, you know, of a word. In Italia c'è molto dibattito sul fatto del fare coming out o non fare coming out. Insomma, è una libertà dell'individuo fare coming out? O è un dovere, come dire, quasi sociale per un gay affermare la propria omosessualità in quanto appunto identità? I think it's, I mean, I still know people who are, as we say, in the closet. Conosco ancora persone che si nascondono, soprattutto uomini che hanno una moglie. E mi sorprende sempre che questo possa accadere ancora oggi. Un conto è tenere per sé le proprie preferenze, la propria vita sessuale, soprattutto se si è single. Un'altra cosa è mentire e nascondersi. Una cosa che è molto distruttiva per l'individuo è proprio mentire. Finché era illegale essere omosessuali, posso capire la necessità di nascondersi. Ma ora, quando vedo persone che mentono sulla propria sessualità, mi viene tristezza, per loro soprattutto, perché deve essere uno sforzo enorme. e in molti paesi non è più necessario. Purtroppo lo è in Russia, in Africa, ma negli Stati Uniti e nella maggior parte dell'Europa non è più necessario. Quindi, quando mi rendo conto che la gente mente sulla propria sessualità, ho un moto di empatia. And so therefore my reaction is empathy. I'm world weary, world weary, living in a great big town. E questo era David Levitt che ci parlava del suo romanzo I due hotel Frankfurt, pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it, per essere sempre informati potete seguirmi naturalmente su Twitter. Grazie in regia a Filippo Aureggi, una buona lettura a tutti, da Alessandra Tedesco.